18. Mi hai promesso che mi amerai dolcemente e saremo felici. Non cercare di anticipare i tempi, Stenio. Non preoccuparti di sondare i misteri della vita. Lascia che ti prenda e che ti porti dove tutti noi andiamo. Hai paura di me? È te stesso che devi temere. È te stesso che devi reprimere, perché alla tua età l'immaginazione rovina i frutti più gustosi, impoverisce tutti i piaceri. Alla tua età non sai approfittare di nulla, vuoi sapere tutto, possedere tutto, esaurire tutto, e poi ti stupisci che i beni dell'uomo siano così pochi, quando dovresti solo stupirti del cuore dell'uomo e dei suoi bisogni. Vai, credimi, cammina lentamente, assapora uno per uno tutti gli ineffabili piaceri di una parola, di uno sguardo, di un pensiero, tutti gli immensi nulla di un amore nascente. Non eravamo forse felici ieri, sotto questi alberi, quando, seduti vicini, sentivamo i nostri vestiti toccarsi e i nostri occhi scorgersi nell'ombra. Era una notte buia, eppure ti ho visto, Stenio. Ti ho visto bello come sei e ho immaginato che tu fossi la silfide di questi boschi, l'anima di questa brezza, l'angelo di quest'ora misteriosa e tenera. Hai notato, Stenio, che ci sono ore in cui siamo costretti ad amare, ore in cui la poesia ci inonda, in cui il nostro cuore batte più forte, in cui la nostra anima si precipita fuori di noi e rompe tutti i legami della volontà per andare a cercare un'altra anima in cui riversarsi. Quante volte, all'inizio della notte, al sorgere della luna, alle prime luci del giorno, quante volte nel silenzio della mezzanotte e in quell'altro silenzio del mezzogiorno, così opprimente, così ansioso, così divorante, non ho sentito il mio cuore correre verso una meta sconosciuta, verso una felicità senza forma e senza nome che è nel cielo, che è nell'aria, che è dappertutto, come un magnete invisibile come l'amore. Eppure, Stenio, non è amore. Tu lo credi, tu che non sai nulla e speri in tutto. Io, che so tutto, so che ci sono, oltre l'amore, desideri, bisogni, speranze che non si estinguono. Senza questo cosa sarebbe l'essere umano, a cui sono stati concessi così pochi giorni per amare sulla terra? Ma in quelle ore ciò che sentiamo è così vivido, così potente, che lo diffondiamo su tutto ciò che ci circonda. In quelle ore in cui il divino ci possiede e ci riempie, lasciamo che l'irradiarsi del raggio che ci avvolge risplenda su tutte le sue opere. Non hai mai pianto d'amore per quelle stelle bianche che seminano i veli blu della notte, non ti sei mai inginocchiato davanti a loro, non hai mai teso le braccia verso di loro chiamando le sorelle? E poi, poiché all'uomo piace concentrare i suoi affetti, troppo debole com'è per sentimenti vasti, non ti sei forse appassionato qualche volta a una di loro? Non hai forse scelto con amore tra tutte, a volte, quella che sorgeva rossa e scintillante sulle foreste nere dell'orizzonte, a volte quella pallida e dolce, che si velava come una vergine modesta dietro i riflessi umidi della luna, a volte queste tre sorelle ugualmente bianche, ugualmente belle, che brillano in un triangolo misterioso. E tutti questi segni cabalistici, tutti questi numeri sconosciuti, tutti questi strani, giganteschi, sublimi caratteri che tracciamo sulle nostre teste, non ti sei lasciato prendere dalla fantasia di spiegarli e di scoprire in essi i grandi misteri del nostro destino, l'età del mondo, il nome del divino altissimo, il futuro dell'anima. Sì, hai interrogato queste stelle con ardente simpatia e hai creduto di incontrare sguardi d'amore nel tremulo fulgore dei loro raggi. Hai creduto di sentire una voce che cadeva dall'alto per accarezzarti, per dirti: speranza, sei venuta da noi, tornerai da noi. Sono io la tua patria, sono io che ti chiamo, sono io che ti invito, sono io che devo appartenerti un giorno. L'amore, Stenio, non è quello che tu pensi che sia, non è questa violenta aspirazione di tutte le facoltà verso un essere creato. L'amore è la santa aspirazione della parte più eterea della nostra anima verso l'ignoto. E Essendo esseri dalla mentalità ristretta, cerchiamo costantemente di dare una svolta a questi desideri ardenti e insaziabili che ci consumano. Cerchiamo una meta per loro intorno a noi e, poveri, prodighi quali siamo, adorniamo i nostri idoli deperibili con tutte le bellezze immateriali viste nei nostri sogni. Le emozioni dei sensi non ci bastano. La natura non ha nulla nel tesoro delle sue gioie ingenue per placare la sete di felicità che è in noi. Abbiamo bisogno del paradiso e non ce l'abbiamo. Perciò cerchiamo il cielo in una creatura come noi e spendiamo per essa tutta l'alta energia che ci è stata data per un uso più nobile. Neghiamo al divino il sentimento di adorazione, un sentimento che è stato messo in noi per tornare al divino solamente. Lo trasferiamo a un essere incompleto e debole che diventa il dio della nostra adorazione idolatrica. Nella giovinezza del mondo, quando l'uomo non aveva distorto la propria natura e frainteso il proprio cuore, l'amore di un sesso per l'altro, come lo concepiamo oggi, non esisteva. Il solo piacere era un vincolo. La passione morale, con i suoi ostacoli, le sue sofferenze, la sua intensità, è un male che queste generazioni hanno ignorato. Questo perché c'erano degli dèi allora e non ce ne sono oggi. Oggi, per le anime poetiche, il sentimento di adorazione entra anche nell'amore fisico. Strano errore di una generazione avida e impotente. Così, quando il velo divino cade e la creatura si mostra gracile e imperfetta, dietro queste nuvole d'incenso, dietro questo alone d'amore, ci spaventiamo della nostra illusione, arrossiamo, rovesciamo l'idolo e lo calpestiamo. E poi ne cerchiamo un altro, perché dobbiamo amare e ancora spesso sbagliamo fino al giorno in cui, disillusi, illuminati, purificati, abbandoniamo la speranza di un affetto duraturo sulla terra e innalziamo al divino, finalmente, l'omaggio entusiasta e puro che non avremmo mai dovuto rivolgere ad altri. 19. Non scrivermi, Lelia. Perché mi scrivi? Ero felice e ora mi ricacci nelle ansie da cui ero uscito per un attimo. Oh, quest'ora di silenzio con te mi aveva rivelato tanti piaceri ineffabili. Già, Lelia, ti stai pentendo di avermeli fatti conoscere. E cosa temi dalla mia avida impazienza? Tu mi hai deliberatamente frainteso. Sai bene che sarò felice con poco, perché nulla di ciò che farai per me mi sembrerà piccolo, perché attribuirò ai tuoi più piccoli favori il prezzo che devono avere. Non sono presuntuoso. So di essere inferiore a te, donna crudele, perché continui a ricordarmi questa umiltà tremante che mi fa soffrire così tanto? Capisco, Lelia. Ahimè, capisco. Solo Dio può amarti. Solo in cielo la tua anima può riposare e vivere, quando nell'emozione di un'ora di fantasticheria hai lasciato cadere su di me uno sguardo d'amore, ti sei sbagliata, stavi pensando a Dio, stavi prendendo un uomo per un angelo. Quando la luna è sorta, quando ha illuminato i miei lineamenti e ha dissipato quell'ombra favorevole alle tue chimere d'oro, hai sorriso con pietà. Quando hai riconosciuto la fronte di stenio sulla quale avevi piantato un bacio, però. Volevi che lo dimenticassi? Lo vedo. Avevi paura che io conservassi la sensazione inebriante e che viva un giorno intero con essa? Stai certa che non ho assaporato questa felicità alla cieca? Se ha divorato il mio sangue, se mi ha spezzato il petto, non ha fuorviato la mia ragione. Con te la ragione non sbaglia mai, Lelia. Stai tranquilla. Ti dico che non sono uno di quegli audaci Don Giovanni per i quali il bacio di una donna è una garanzia d'amore. Non credo di avere il potere di animare il marmo e di resuscitare i morti. Eppure il tuo respiro mi ha incendiato il cervello. Le tue labbra hanno sfiorato appena la punta dei miei capelli e mi è sembrato di sentire una scintilla elettrica, una commozione così terribile che un grido di dolore mi è uscito dal petto. Oh, non sei una donna, Lelia, lo vedo. Avevo sognato il paradiso in uno dei tuoi baci e tu mi hai fatto conoscere l'inferno. Eppure il tuo sorriso era così gentile. Le tue parole così dolci e consolanti che mi sono lasciato rendere felice da te. Questa terribile emozione si è un po' attenuata. Ora ho potuto toccare la tua mano senza rabbrividire. Mi hai mostrato il cielo e sono salito con le tue ali. Ieri sera ero felice quando ho ricordato il tuo ultimo sguardo, le tue ultime parole. Non mi lusingavo, te lo giuro. Sapevo di non essere amato da te, ma mi addormentai in quel morbido torpore in cui mi avevi gettato. Già, mi svegli per gridarmi con la tua voce luttuosa: ricordati, Stenio, che non posso amarti. Lo so, signora, lo so fin troppo bene. 20. Addio, Lelia, sto per uccidermi. Oggi mi hai reso felice. Domani mi toglierai rapidamente la felicità che mi hai dato stasera per errore o per capriccio. Non devo vivere fino a domani. Devo addormentarmi nella mia gioia e non svegliarmi più. Il veleno è pronto. Ora posso parlarti liberamente. Non mi vedrai più. Non potrai più disperarti per me. Forse rimpiangerai la vittima che hai potuto far soffrire, il giocattolo che ti sei divertita a tormentare con il tuo respiro capriccioso. Mi hai amato più di Tredmore, hai detto, anche se pensavi meno a me. È vero che non puoi tornare a Tredmore a tuo piacimento. Contro di lui il tuo potere viene meno. Le tue unghie di tigre e di donna non hanno presa su quel cuore di diamante. Ero una cera morbida che riceveva ogni impressione. Vedo, artista, che ti piacevo di più. Mi hai tormentato a tuo piacimento e mi hai dato tutte le forme delle tue ispirazioni. Triste, hai impresso nella tua opera il sentimento da cui sei stata dominata. Calma, gli hai dato l'aria tranquilla degli angeli. Irritata, gli hai comunicato il terribile sorriso che il diavolo ha messo sulle tue labbra. Così la statuaria crea un dio da un po' di fango e un rettile dallo stesso fango che era prima un dio. Perdona, perdona Lelia, questi momenti di odio che mi ispiri, perché ti amo appassionatamente e delirando disperatamente. Posso dirti senza offenderti, senza disobbedirti, visto che questa è l'ultima volta che ti parlo, mi hai fatto molto male. Eppure era molto facile per te fare di me un uomo felice, un poeta dalle idee felici, dalle sensazioni vivaci, con una parola al giorno, con un sorriso ogni sera, mi avresti reso grande. Mi avresti mantenuto giovane. Invece hai cercato solo di avvizzirmi e scoraggiarmi. Mentre dicevi di voler mantenere il sacro fuoco in me, lo hai spento fino all'ultima scintilla, lo hai riacceso perfidamente per sorprendere la sua eruzione e soffocare la sua fiamma. Ora rinuncio all'amore, rinuncio alla vita. Sei felice? Addio. La mezzanotte si avvicina. Vado. Vado in un posto dove tu non verrai, Lelia, perché è impossibile per noi avere lo stesso futuro. Non adoriamo la stessa potenza. Non abiteremo negli stessi cieli. 21. Scattò la mezzanotte. Tredmore entrò in casa di Stenio e lo trovò seduto, pensieroso, accanto al fuoco. Il tempo era freddo e buio. Il vento fischiava con voce acuta sotto i pannelli vuoti e sonori. Su un tavolo, di fronte a Stenio, c'era una tazza piena fino all'orlo che Tremor fece cadere sfiorandola con il cappotto. «Devi venire con me da Lelia», disse con aria grave ma serena. «Lelia vuole vederti. Credo che sia giunta la sua ora e che stia per morire». Stenio si alzò bruscamente e ricadde sulla sedia, pallido e debole. Poi si rialzò, prese convulsamente il braccio di Tredmore e corse da Lelia. Era sdraiata su un divano. Le sue guance avevano una lucentezza blu. I suoi occhi sembravano essersi ritirati sotto l'arco profondo delle sopracciglia. Una grande piega le attraversava la fronte, di solito così lucida e bianca, ma la sua voce era piena e sicura. E il sorriso di disprezzo vagava, come al solito, sulle sue labbra mobili. Accanto a lei c'era il bel dottor Kreisneifeter, un giovane affascinante, biondo e rubicondo, con un sorriso disinvolto, una mano bianca e un modo di fare gentile e protettivo. Il bel dottor Kreisneifeter teneva familiarmente una mano di Lelia nella sua e di tanto in tanto interrogava il movimento dell'arteria e poi passava l'altra mano tra i bei riccioli dei suoi capelli, sollevati ad arte fino a una punta sulla cima della sua nobile testa. «Non è niente», disse con un sorriso gentile, «niente di niente. È il colera morbus, la cosa più comune al mondo in questo periodo e la malattia più conosciuta. Non preoccuparti, mio bellissimo angelo, hai il colera. Una malattia che uccide in 2 ore chi è abbastanza debole da esserne spaventato, ma che non è pericolosa per menti salde come le nostre. Quindi non avere paura. Gentile straniera, qui siamo in due a non temere il colera. Io e te sfidiamo il colera. Spaventiamo questo brutto spettro, questo mostro orrendo che fa rizzare i capelli alla razza umana. Ridiamo del colera. È l'unico modo per affrontarlo. Ma, disse Trenmore, e se provassimo il pance del dottor Magendie? Perché non il pance del dottor Magendie? Disse il bel dottor Kreisnaifetta. Se il paziente non ha avversione per il pance. Ho sentito dire, disse Lelia con caustica compostezza, che era proprio il contrario. Proviamo invece con gli ammorbidenti. Proviamo gli ammorbidenti, se credete nella virtù degli ammorbidenti, dice il bel dottor Kreisnaifetta. Ma cosa consiglierai secondo la tua coscienza? Disse Stenio. A questa parola, coscienza, il dottor Kreisnaifetta lanciò uno sguardo di beffarda compassione al giovane poeta, poi si riprese perfettamente e disse con aria seria: La mia coscienza mi ordina di non ordinare assolutamente nulla e di non interferire in alcun modo con questa malattia. Molto bene, dottore, disse Lelia. Beh, si sta facendo tardi, quindi buonanotte. Non interrompete più il vostro prezioso sonno. Oh, non badate a me, disse. Sto bene qui e mi piace seguire i progressi del male. Studio, amo con passione la mia professione e sacrifico volentieri i miei piaceri e il mio riposo. Sacrificherei la mia vita se fosse necessario per il bene dell'umanità. Qual è il suo lavoro, dottor Kreisnaifetta? Consolo e incoraggio, rispose il medico. È la mia vocazione. Lo studio mi ha rivelato l'importanza delle malattie che affliggono l'uomo. Lo vedo, lo osservo, sono testimone del risultato e traggo profitto dalle mie osservazioni. Per ordinare le precauzioni del sistema igienico applicabile alla vostra persona, dice Lelia. Oh, ho poco fiducia nell'influenza di qualsiasi sistema, disse il medico. Tutti noi nasciamo con il principio di una morte più o meno imminente. I nostri sforzi per ritardare il termine spesso non fanno che accelerarlo. La cosa migliore è non pensarci e aspettare, dimenticando che deve arrivare. Lei è molto filosofo, disse Lelia, prendendo il tabacco dalla scatola d'oro del dottore. Ma ebbe una convulsione e cadde morente tra le braccia di Stenio. Vieni, mia bella bambina, disse il dottore senza barba. Fatti coraggio. Se sei minimamente preoccupata per la tua condizione, sei perduta, ma non sei più in pericolo di me se mantieni la stessa compostezza. Lelia si sollevò su un gomito e, guardandolo con gli occhi spenti dalla sofferenza, trovò ancora la forza di sorridere ironicamente. Povero dottore, disse. Vorrei vederla al mio posto. Grazie, pensò il medico. E quindi ha detto che non crede nell'influenza dei rimedi, quindi non crede nella medicina. Mi scusi, lo studio dell'anatomia e la conoscenza del corpo umano con le sue alterazioni e infermità è una scienza positiva. Sì, disse Lelia, che tu coltivi come un'arte del piacere. Amici miei, disse voltando le spalle al medico, andate a chiamarmi un prete, vedo che il medico mi sta abbandonando. Trenmore corse a chiamare il sacerdote. Stenio voleva gettare il medico dal balcone. Oh, lascialo stare, disse Lelia. Mi diverte. Dagli un libro e portalo nel mio studio davanti a uno specchio in modo che possa tenersi occupato. Quando sentirò il mio coraggio venir meno, lo manderò a chiamare affinché mi dia consigli sullo stoicismo e io possa morire ridendo di quell'uomo e della sua scienza. Arrivò il sacerdote. Era il prete irlandese alto e bello della cappella di San Lorenzo. Si avvicinò, austero e lento. Il suo aspetto ispirava un religioso rispetto. Il suo sguardo, calmo e profondo, che sembrava riflettere il cielo, sarebbe stato sufficiente a dare fede. Lelia, distrutta dalla sofferenza, aveva nascosto il viso sotto il braccio contratto, intrecciato ai suoi capelli neri. Sorella mia, disse il sacerdote con voce piena e fervente. Lelia lasciò ricadere il braccio e girò lentamente il viso verso l'uomo di Dio. Ancora quella donna! Gridò ritraendosi terrorizzato. Poi Il suo volto si sconvolse, i suoi occhi rimasero fissi e pieni di paura, il suo colorito divenne livido e Stenio ricordò il giorno in cui lo aveva visto impallidire e tremare quando aveva incontrato lo sguardo scettico di Lelia sopra la folla prostrata. «Sei tu, Magnus?» gli disse. «Mi riconosci?» «Se ti riconosco, donna!» gridò il sacerdote confuso. «Se ti conosco, menzogna, disperazione, perdizione!» Lelia rispose solo con uno scoppio di risa. «Vieni», disse attirandolo a sé con la sua mano fredda e bluastra. «Vieni, prete, e parlami di Dio. Sai perché sei stato portato qui? È un'anima che sta per lasciare la terra e deve essere mandata in cielo. Non hai il potere di farlo?» Il sacerdote rimase in silenzio, terrorizzato. «Forza, Magnus», disse lei con triste ironia, volgendo verso di lui il suo volto pallido, già coperto dalle ombre della morte. «Compi la missione che la Chiesa ti ha affidato. Salvami! Non perdere tempo, sto per morire!» «Lelia», rispose il sacerdote, «non posso salvarti, lo sai, il tuo potere è più grande del mio!» «Che cosa significa?» disse Lelia alzandosi dal letto. «Sono già nel mondo dei sogni? Non appartengo più alla specie umana che striscia, prega e muore? Lo spettro spaventato non è forse un uomo, un sacerdote? La tua ragione è turbata, Magnus? Voi siete qui, vivi e in piedi, e io sto morendo, eppure i vostri pensieri sono turbati, e la vostra anima si indebolisce, mentre la mia chiede con calma la forza di espirare. Vieni, uomo di poca fede, invoca Dio per la tua sorella morente e lascia ai bambini quei timori superstiziosi che dovrebbero impietosirti. Infatti, chi siete voi tutti? Ecco Trenmore stupito, ecco Stenio, il giovane poeta che guarda i miei piedi e crede di vedervi degli artigli, ed ecco un prete che rifiuta di assolvermi e di seppellirmi. Sono già morta? Sto sognando? No, Lelia. Disse infine il sacerdote con voce triste e solenne: «Non ti prendo per un demone. Non credo nei demoni, lo sai?» «Ah, ah!» disse, rivolgendosi a Stenio. «Ascoltate il sacerdote, non c'è nulla di meno poetico della perfezione umana. Allora, padre, rinneghiamo Satana, condanniamolo al nulla. Non mi interessa la sua alleanza. Anche se l'aria satanica è abbastanza di moda e ha ispirato Stenio a scrivere dei versi molto belli in mio onore. Se il diavolo non esiste, sono abbastanza tranquilla sul mio futuro. Posso lasciare la vita in questo momento, non cadrò all'inferno. Ma dove devo andare? Dimmi, dove mi manderai, padre? In paradiso, hai detto?» «Al cielo!» gridò Magnus. «Tu in paradiso! Hai detto quella parola con la bocca!» «Non viene dal cielo nemmeno lui?» «Donna», disse il sacerdote, «non è per te». «Ecco un sacerdote consolatore, poiché non può salvarmi l'anima, si faccia venire il medico e per oro argento decida di salvarmi la vita». «Non vedo nulla che si possa fare», disse il dottor Kreisnaifetta. «La malattia segue un decorso regolare e ben noto. Hai sete? Lascia che ti portino dell'acqua e poi calmati, aspettiamo. I rimedi ti ucciderebbero ormai. Lascia che la natura faccia il suo corso». «Buona natura», disse Lelia. «Mi piacerebbe fare appello a te, ma chi sei tu? Dov'è la tua misericordia? Dov'è il tuo amore? Dov'è la tua pietà? So che sono venuta da te e che devo tornare da te, ma che diritto ho di pregarti di lasciarmi qui ancora un giorno? Può esserci un pezzo di terra arido dove la mia polvere non basta a far crescere l'erba. Devo quindi andare a compiere il mio destino, ma tu, sacerdote, invoca su di me lo sguardo di colui che è al di sopra della natura e può comandarla, può dire all'aria pura di ravvivare il mio respiro, al succo delle piante di rianimarmi, al sole che sta per apparire di riscaldarmi il sangue. Vediamo, insegnami a pregare Dio». «Dio?» disse il sacerdote abbassando la testa sul petto in preda alla disperazione. «Dio!» Lacrime calde gli scorrono sulle guance avvizzite. «Oh Dio!» disse. «Oh dolce sogno che mi è sfuggito! Dove sei? Dove posso trovarti? Speranza, perché mi abbandoni senza ritorno? Lasciami andare, signore, lasciami andare via da qui! Qui tutti i miei dubbi riprendono il loro impero fatale. Qui, in presenza della morte, svanisce la mia ultima speranza, la mia ultima illusione. Vuoi che ti dia il paradiso? Che ti aiuti a trovare Dio? Tu saprai se esiste. Sei più felice di me che non lo so. Vai via, disse Lelia. Uomo superbo, lascia il mio letto. E tu, Trenmore, vedi questo medico che non crede nella sua scienza, vedi questo prete che non crede in Dio, eppure questo medico è uno studioso. Questo prete è un teologo, questo si dice allevia i moribondi, questo consola i vivi, ed entrambi hanno mancato di credere in una donna morente. Signora, disse Kreisnaifetter, se avessi cercato di giocare al dottore con voi mi avreste preso in giro, vi conosco. Non siete una persona comune, siete una filosofa. Signora, disse Magnus, non ricordi la nostra passeggiata nella foresta di Grimsel? Se avessi osato fare il prete con te, non mi avresti fatto ricredere? Allora è così, disse Lelia in tono amaro. Qual è la vostra forza? La debolezza degli altri è il vostro potere, ma non appena vi si oppone, vi tirate indietro e ammettete, ridendo, di avere un ruolo falso tra gli uomini? Ciarlatani e impostori quali siete? Ahimè, Tremmor, dove siamo? A che punto è il secolo? Lo scienziato nega, il sacerdote dubita. Vediamo se il poeta esiste ancora. Stenio, prendi la tua arpa e cantami i versi del Fausto, oppure apri i tuoi libri e raccontami ancora le sofferenze di Obermann, i trasporti di Saint-Preux. Vediamo, poeta, se capisci ancora il dolore. Vediamo, giovane uomo, se credi ancora nell'amore. Ahimè, Lelia, gridò Stenio torcendosi le mani bianche. Sei una donna e non ci credi. Dove siamo? Dov'è il secolo?